Eccoci qua. E allora ringraziamo innanzitutto Pietro che ci ha dato la disponibilità a venire a raccontarci qualcosa di questo movimento così interessante, Extinction Rebellion, e Maria Eletta Baroni che ci racconterà qualcosa del social poster design e ci offrirà insomma anche il lavoro dei pensieri delle cose. Una carissima accenno su quello che è la scuola di Santo Fabio, il progetto Pulvis, perché ci sono molti amici e anche persone nuove. La scuola di Santo Fabio è un esperimento nato nel contesto del progetto di rigenerazione urbana di Rovereto e in particolare del distretto di Santa Maria, che vuole essere un luogo, un dispositivo di connessione tra le realtà più diverse, più diverse e l'arte contemporanea. Con lo scoppio della guerra, si è nato nell'autunno, quindi insomma è anche abbastanza giovane, con lo scoppio della guerra, io si sono di una serie di ragionamenti che ci stanno a cuore, che rendono insomma, sempre più pesante questo nostro tempo, ci sembrava importante dedicare, capire come creare un dialogo, una discussione intorno a questi temi. Abbiamo pensato in realtà alcune delle realtà più interessanti, delle voci più interessanti dell'attivismo contemporaneo, come la settimana scorsa Fridays for Future e oggi Extinction Rebellion, e abbiamo invitato poi creativi, artisti, tanto a lavorare su questi temi un po', abbiamo detto, ad alta voce, quindi il manifesto, il volantino, qualcosa di insomma anche piuttosto assertivo, e poi abbiamo invitato quattro artiste a lavorare con strumenti più effimeri, e quindi ci troverete all'interno del quartiere oggi, domani dalle 4 alle 7, installazioni tra questo spazio, dopo guarderemo insieme, anzi calpesteremo insieme un'opera d'arte, che è quindi la chiesa di Santo Svaldo, poi c'è una qualcosa al Bettagrillo, qualcosa al Colle Masotti, insomma, la fontana delle due spine anche raccoglie un momento propiziatorio, ma adesso sono andato a lungare. Lasciamo spazio alle immagini però Pietro, grazie. Va bene. E okay. Poi insomma comincia, ci racconta qualcosa, poi insomma ci mettiamo in dialogo e successivamente insomma si innesterà questo dialogo sull'attività. Sì. Ok. Vabbè, innanzitutto buongiorno a tutti, buon pomeriggio. Io sono Pietro. Mi sentite? Fino in fondo, là, sì. E io lavoro come insegnante, insegno fisica in una scuola superiore. E oggi vi parlo di Extinction Rebellion, così a sensazione, chi l'ha già sentito? Io. Beh dai, pensavo peggio. Allora, la prima cosa interessante di cui vi parlo è questo qua. Chi vuole provare a indovinare cos'è? Una X. Una X sbagliata. Una clessidra. Allora, il nostro logo è una clessidra e noi facciamo attivismo ambientale, quindi diciamo che cerchiamo di far capire al mondo che siamo in difficoltà, no? Che la Terra sta un po' soffrendo, o meglio tanto, e che ci rimane poco tempo. Uno dei nostri slogan è che manca poco, ok? Questo è il motivo per cui abbiamo la clessidra. Allora, a me piace molto, da insegnante, scusatemi, coinvolgere un po' le persone che ho di fronte, quindi abbiate pazienza, sono fatto così, prendere o lasciare. Vi spiego alcune cose che facciamo sempre in X-Server. XR è Extinction Rebellion, acronimo, circa, e per, diciamo, rendere i nostri processi decisionali e le nostre discussioni molto orizzontali e includere tutti quanti. Abbiamo una parte molto importante che è la gestualità. Vi spiego tre gesti importanti che facciamo. Il primo gesto è per esprimere consenso, e è questo. Trovate? Così. Quindi io dico, il mondo è in difficoltà, dobbiamo fare qualcosa. È un modo per evitare che tutti dicano sì, c'hai ragione, bravo, alzano la mano, tutti stanno zitti, io parlo, però si è capito che sono d'accordo. Il gesto opposto è il dissenso. Quindi io dico, secondo me domani andiamo e spacchiamo il municipio per protestare. No, cioè, anche no. Quindi diciamo che è un modo per interagire col pubblico in modo diretto, senza avere interruzioni. Ce ne sono molti altri, c'è cioè, per esempio il chiarimento, dico una cosa che non è chiara, lui fa in fondo, non ha sentito, fa C, e io, ah, scusa, te la ripeto, chiarimento. Poi c'è la P, che è la proposta, quindi io dico, ho un'idea specifica per questo progetto, proposta, ok? E poi c'è la T è il tecnico, c'è qualcuno in fondo che deve andare via e non vuole andare via senza dire niente, fa tecnico, scusate, vado, ciao, e va via. Abbiamo tanti altri, diciamo, modi di interagire, ma questo è più o meno quello che facciamo. Quindi mentre parlo, se fate robe strane, per me va bene, ok? Allora, Cerco di essere sintetico, cerco di essere rapido, non voglio tediarvi troppo con questo argomento perché credo che tutti voi siete molto più così concentrati e volenterosi nella parte artistica, però vedrete che anche noi abbiamo un bel po' di arte dentro il nostro gruppo, quindi spero vi interesserà. Chi siamo, perché ci ribelliamo? Ribellione è proprio una delle nostre parole chiave, Extinction Rebellion. Quali sono i nostri principi chiave? E diciamo che è molto importante definirli perché poi chiunque rispetti questi principi può dire che agisce nel nome di Extinction Rebellion, quindi puoi essere un ribelle, noi ci definiamo ribelli, fin tanto che tu rispetti questi principi, poi puoi anche agire singolarmente. Poi vi spiego perché l'attivismo funziona e perché siamo davvero convinti di quello che facciamo. Ci sono anche dei libri proprio là, che sono stati messi da Duccio. Duccio, grazie, che raccontano un po' di Extinction Rebellion e se in qualche modo vi riprende un po' la discussione e volete saperne di più, sono degli ottimi testi. E poi cosa fare? Perché qualcosa bisogna fare, no? Allora, vabbè, Extinction Rebellion, la X è per la Extinction, la R è per ribellione. In italiano naturalmente vuol dire ribellione all'estinzione. Allora, movimento internazionale, disobbedienza civile non violenta. Sono secondo me parole difficilissime. Andiamo per ordine. Movimento internazionale, perché è stato creato in Inghilterra nel 2018 e si è poi sviluppato un po' dappertutto creando vari gruppi locali, diciamo per esempio il nostro qua a Trento, ma ce ne sono tanti altri in Italia, c'è anche, mi sembra che c'è anche in Sud America che si dice Rebellion, quindi si è sviluppato. Disobbedienza civile, chi è che prova così a sentimento a dire cos'è la disobbedienza civile? Uno che si butta coraggioso. Fate così, così capisco nessuno vuole farlo. Chi è che ha mai sentito parlare di disobbedienza civile? No, cioè, disobbedienza civile poi si lega al ragionamento non violento o si lega al ragionamento Gandhi, Martin Luther King. Ci siamo? Sì, diciamo che la disobbedienza in generale è un comportamento che va contro l'obbedienza e quindi è fare qualcosa che non rispetta sostanzialmente le leggi. Civile fa per indicare questa. Quando io faccio un atto di disobbedienza civile, sostanzialmente violo delle leggi che secondo me sono ingiuste in modo consapevole. L'ultima parte è non violenta. È uno dei cardini del nostro movimento e quello che facciamo sostanzialmente è disobbedire a leggi ingiuste in modo non violento per protestare in modo internazionale su qualcosa che secondo noi è importante. È chiaro? Sì? Fatemi così. Ok, dai. Alcuni valenterosi, altri un po' meno, però ci sta. Allora, perché facciamo questo movimento? Perché il problema è evidente, no? Abbiamo un'emergenza climatica ed ecologica che distrugge il pianeta. Quindi ogni volta che noi parliamo di Extinction Rebellion in pubblico, diamo questo per scontato. Io non sto qua a convincervi del fatto che è vero. Se non ci credete, leggete qualunque news, qualunque sito scientifico, qualunque documento, diciamo così, che ha una certa valenza scientifica e capite che il problema è serio. Noi di Extinction Rebellion non vogliamo convincere nessuno che c'è un problema. Noi vogliamo cercare di lottare con questo problema. Quindi se non ci credete, beh, non è un problema mio perché la scienza parla chiaro. Io sono uno scienziato, sono ingegnere, ma tutti gli scienziati sono d'accordo sul fatto che la Terra sta vivendo un'emergenza climatica ed ecologica e che il nostro pianeta, o meglio, e che l'uomo sul nostro pianeta ha grossi problemi. Noi siamo un gruppo appunto in cui sostanzialmente attuiamo questi principi di Extinction Rebellion a livello locale. Siamo basati a Trento, ma abbiamo anche una sede, tra virgolette, a Bolzano. Ma siamo un gruppo abbastanza aperto, nel senso che non è che se uno non è a Trento non può entrare nel nostro gruppo. Molto spesso facciamo eventi o comunque diciamo coinvolgiamo persone non solamente a Trento e Bolzano. Quindi chiunque è interessato non si preoccupi se non è di Trento o di Bolzano. Va benissimo anche a Rovereto. Principi. Tre principi molto facili. Dire la verità. Quindi la richiesta numero uno di Extinction Rebellion è che i governi, ma anche i giornali e i media, dicano la verità. E cioè che c'è un'emergenza climatica ed ecologica. Semplice e facile da ricordare. Il punto 2 è che ci sia un'azione immediata, quindi non chiacchiere, come sicuramente Fridays for Future ha già detto, spesso i governi chiacchierano, no? Hanno bellissime idee, bellissimi principi, il PNRR, una serie di idee per la transizione ecologica, il Ministero della Transizione Ecologica perfino, ma poi in realtà quello che si fa è poco, quindi quello che vogliamo noi è un'azione immediata. Il terzo punto è un punto molto delicato e molto interessante, che anche all'interno di Extinction Rebellion spesso crea un po' di conflitto, e è il come fare a far sì che in effetti ci sia un'azione immediata. Quello che proponiamo noi sono le cosiddette assemblee cittadine. Chi ha già sentito assemblea cittadina? Sì? Sì? Ok. Per chi non l'ha sentita, assemblee cittadine sono sostanzialmente dei... o meglio, è un metodo per far sì che delle decisioni politiche vengano prese in modo rapido, coinvolgendo in modo diretto la popolazione, sostanzialmente estraendo la sorte delle persone che appartengono a diversi background, o hanno comunque una provenienza differente, variegata, e supportati da esperti che però rimangono assolutamente apolitici e non cercano di indirizzare la decisione, abbiano potere sostanzialmente di legiferare in merito a determinati argomenti. Esempio veloce, io faccio un sondaggio e dico: ok, prendiamo 100 persone a caso di Rovereto, le metto in quest'aula, porto qua l'esperto di clima migliore che abbiamo, gli dico: boh, questo è il problema, ragazzi, cosa facciamo? Questi 100 sono chiamati a comportarsi un po' come il Parlamento e portare una decisione. Detto così sembra un meccanismo stranissimo, in realtà in tanti stati è già stato attuato e funziona. Per esempio in Irlanda è stata un'assemblea cittadina che ha fatto sì che fosse indetto un referendum, che ha poi portato a una serie di, diciamo così, accettazione per quanto riguarda le unioni civili, per quanto riguarda i matrimoni o comunque le unioni tra persone dello stesso sesso e così via. Quindi diciamo che è uno strumento particolare, ma che funziona. Allora, l'attivismo funziona. In questa slide ho portato tre forme di attivismo, o meglio, tre azioni di Extinction Rebellion. La prima è stata a Londra nel 2019 e praticamente Extinction Rebellion è riuscita a bloccare l'accesso a Londra, ok? Attraverso, per chi non lo sapesse, Londra praticamente ha 4-5 ponti che collegano due pezzi della città. E Extinction Rebellion è riuscito a bloccare questi tre accessi alla città e sostanzialmente tenere Londra sotto scacco per 2-3 giorni. Negli UK è stata una cosa gigantesca, hanno parlato di Extinction Rebellion per mesi, hanno avuto un incontro con il primo ministro e sono riusciti a far dichiarare emergenza climatica all'Inghilterra. Per farvi capire la portanza di questa cosa, dopo questo intervento hanno bloccato il progetto di espansione di un aeroporto, che era un progetto già pianificato, pronto per essere fatto, di 160 milioni di sterline. Quindi a volte le azioni portano davvero a delle conseguenze. Dopo l'Inghilterra, altri stati hanno dichiarato emergenza climatica, emergenza ecologica, e quindi le cose stanno cambiando. Però bisogna davvero livellarsi ed essere attivi. Questa invece forse vi interessa di più perché comincia a vedersi un po' di arte. È una ribellione in cui sono andato anch'io, a Roma nel 2020, sempre organizzata da Extinction Rebellion, e abbiamo fatto diverse azioni, diverse cose, ma nella fattispecie questa qui era una rappresentazione artistica in cui le persone erano vestite di bianco e rappresentavano una persona morta a causa di cambiamenti climatici. Per esempio qui c'è scritto: sono stato assassinato nel 2019 in Colombia per aver difeso l'ecosistema nelle Ande. Oppure, sono morto nel 2019 per migrazione climatica e quant'altro. Quindi l'idea è far capire quante persone muoiono a causa del cambiamento climatico. Oltre a questo abbiamo anche le Red Rebels, che sono le ribelli rosse, che si vestono invece completamente di rosso e rappresentano il sangue. Per esempio quest'anno a Venezia abbiamo versato della vernice rossa su alcune scalinate di alcune chiese, essendo come al solito disobbedienza civile, poi anche di questo parliamo, e per rappresentare in quel caso il sangue. Questa qui invece è un'azione che abbiamo fatto nel 2020, siamo stati su un ghiacciaio del Tresena, in Südtirol, semplicemente facendo vedere che questo ghiacciaio rispetto a 50 anni fa praticamente si è ritirato dell'80%, non esiste quasi più. E ancora peggio, abbiamo trovato là delle ruspe perché c'è l'idea di farci un impianto scistico. Quindi diciamo che la nostra idea è stata abbastanza chiara. Già il mondo va male di suo, se poi ci mettiamo anche del nostro, le cose peggiorano. Ho cerchiato questo numero, 3,5%. Sondaggio: chi pensa che sia un numero alto o basso? Grazie. Alto? Basso? Basso? Allora, degli studi abbastanza rinomati o comunque abbastanza riconosciuti, dimostrano che quando il 3,5% della popolazione è coinvolto in un processo di ribellione, ok? Quindi è d'accordo nel lottare per una causa, nel 95% dei casi ottiene quello per cui sta lottando. Quindi il 3,5%, pensate, meno di 4 persone su 100, se riesce a mettere insieme le forze e lottare per qualcosa, genera numeri talmente grandi in uno Stato che riesce ad ottenere quello per cui lottava. Esempi di questo 3,5% sono molteplici. Per esempio il movimento dell'apartheid funzionava con numeri veramente bassi, anche se una protesta di tante persone in marcia possa sembrare potente come numeri, in realtà quando rapportata alla popolazione è un numero molto basso. Quindi Extinction Rebellion vuole mobilitare il 3,5% delle persone a ribellarsi e a fare disobbedienza civile. Questo è il nostro obiettivo. Allora, andando un po' più nel dettaglio, cosa facciamo noi di Extinction Rebellion a Trento e a Bolzano? Noi siamo divisi in quattro gruppi, c'è il gruppo Azione, il gruppo Media, il gruppo Scientifico e il gruppo Arte Cultura Rigenerativa. Allora, il gruppo Azione, cosa fa? Le azioni. Cioè, sostanzialmente decide che azioni di disobbedienza civile portare affinché si crei sostanzialmente disruption. Disruption in inglese vuol dire disturbo, fastidio, ok? Qualcosa che faccia parlare di noi. Molto spesso XR fa delle azioni che, diciamo, viste a primo impatto, sembrano quasi controproducenti, cioè che danno solo fastidio alla gente. Ma la realtà è che l'obiettivo principale è il coinvolgimento di quel 3,5% di persone. Quindi spesso far parlare di te va già bene. Non è necessario che parlino bene di te, è importante che parlino di te, così si comincia a capire cos'è questo attivismo ambientale. Concetto discutibile, ma intanto ve lo butto lì. Il gruppo Media si occupa della gestione dei social, quindi Facebook, Instagram, tutti i social che potete immaginare, e anche di fare un po' di propaganda, tra virgolette, quindi prepariamo i volantini, prepariamo, diciamo, tutto quello che ha a che fare poi con le azioni, comunichiamo quando e dove faremo delle cose. Il gruppo Scientifico invece si occupa di studiare a livello scientifico quello per cui protestiamo. Quindi supponiamo che facciamo un'azione per dire no al treno ad alta velocità. Bene, il gruppo Scientifico fa sì che quando veniamo interrogati, per esempio dai giornali, perché protestate, perché secondo voi non va bene, che abbiamo delle risposte chiare e che sappiamo, diciamo, in maniera coerente e precisa spiegare il perché. E infine c'è il gruppo Arte e Cultura Rigenerativa. Come avete visto prima, Extinction Rebellion cerca di essere un po' artistica. Abbiamo infatti tra le nostre fila tantissime persone che hanno forse una predilezione verso l'arte, no? E quindi cerchiamo di essere sempre molto fantasiosi. C'è un sacco di spazio alla creatività, facciamo un sacco di incontri in cui andiamo al parco con la vernice senza sapere cosa fare e poi cominciamo a fare stencil oppure cominciamo a fare i cartelloni, scriviamo cose, buttiamo giù idee, pensiamo a costumi come questi qui. Quindi il gruppo Arte si occupa sostanzialmente di rendere le nostre ribellioni più belle. Okay. E è associato al gruppo Cultura Rigenerativa. Troviamo anche qui. Chi l'ha già sentito? Cultura Rigenerativa? Sì? No? Chi l'ha già sentito mi dica se dico cose sbagliate, perché non è che sia tutto il massimo. Comunque diciamo che è un approccio alla vita, o comunque un approccio per cercare di far sì che ogni persona all'interno di un gruppo si senta a suo agio, si senta apprezzata, si senta ascoltata, si senta bene. E per noi è veramente importante, quindi ogni riunione nostra si apre con un check-in in cui ogni persona deve in qualche modo, se vuole, contribuire alla discussione mettendoci del suo. Un check-in che facciamo spesso è: che tempo meteorologico mi sento oggi? Comincia a leggere, pioggia, neve, acqua, vento, e uno entra un po' nella parte, no? C'è sempre un check out, quindi a fine riunione chiediamo com'è andata, ti sei sentito apprezzato, ti sei sentito ascoltato, pensi che qualcun altro abbia parlato più di te? E in questa cultura rigenerativa c'è tanto anche di comunicazione, una comunicazione orizzontale e totalmente non violenta, di cui magari poi è un argomento di cui si può anche qua discutere. Bene, cosa fare? ogni volta che si arriva qui io penso che basti leggere per capire che il problema è un milione di specie viventi sono in via di estinzione, un milione. Ma è anche evidente che non è così impossibile fermare tutto questo casino, perché capite che sono 100 aziende, 100 nel mondo, che producono il 71% delle emissioni globali. Quindi basterebbe fermare 100 aziende, in teoria. È per questo che noi siamo motivati nella nostra ribellione, convinti di quello che facciamo, e il messaggio che cerchiamo di dare è sempre un messaggio che ce la possiamo fare, solo che è difficile. Ok? Bene, con questo si chiude un po' la presentazione, credo. Mi sembra sì, un'altra slide. Due cose vorrei dire in chiusura. La prima è questa. Extinction Rebellion è veramente un movimento aperto. Chiunque abbia solo anche lontanamente l'interesse di fare qualcosa con noi, venga ai nostri eventi, ci scriva, non c'è nessun tipo di commitment. Non è che se dico che vengo e poi non vengo qualcuno se la prende con me. È apertissimo, è libero, c'è spazio per l'arte, per la scienza. Abbiamo veramente bisogno di aiuto, ma non c'è niente, tra virgolette, da perdere. Chi vuole, venga da me dopo, scambiamo i contatti, abbiamo dei gruppi Telegram. Si può anche solo cominciare a seguirci online magari e vedere cosa facciamo. Seconda cosa che voglio dire è la questione dei tre temi di cui discutiamo. Ti va che lo introduco adesso? Ok. E allora diciamo che dopo la mia presentazione avremo appunto un altro intervento, ma l'idea è di introdurre alcuni temi sui quali poi potete cominciare magari un po' a pensare la vostra opinione per poi avere qualcosa di più creativo, ok? I tre temi che hanno a che fare con l'attivismo ambientale sono i seguenti. Tema numero uno è l'esponenzialità del cambiamento climatico. E voi dite, ecco, fisica. Vabbè. Allora, una cosa esponenziale è una cosa che non cresce in modo costante, ma cresce in modo parabolico. Quindi passa il tempo e l'incremento continua ad aumentare. È un po' come accelerare il moto. Accelero, continuo ad andare sempre più veloce. Ok? Esempio, immaginatevi un lago, immaginatevi un albero a fianco a questo lago. Ogni giorno cade una foglia, ok? Il primo giorno ne cade una, il secondo giorno ne cadono due, il terzo giorno ne cadono quattro, il quarto giorno ne cadono otto, ok? Immaginiamoci che dopo 25 giorni il lago è coperto per metà di foglie. Quanti giorni servono per coprirlo tutto? Secondo voi? Un giorno in più. Con un giorno in più il lago è completamente coperto. L'esponenzialità è qualcosa per l'uomo quasi inconcepibile. Tutto continua ad raddoppiare. Il cambiamento climatico va così. Un giorno va tutto bene, il giorno dopo è un disastro. E' è questo che la gente non capisce. Fino a ieri andava bene, dai che per un po' siamo a posto. Non è così, non è lineare, è esponenziale. Questo è il primo tema di cui volevamo parlare. Tema numero due è il concetto di fast fashion. Chi conosce la fast fashion? Sì? Ah dai. Su questo diciamo che c'è poco da dire, nel senso che è semplicemente l'industria della moda. Quindi il fatto che compagnie come H&M, Zara e chi per esse propongono nuove collezioni continuamente. E questo produrre nuove collezioni continuamente implica due cose. Il primo, che c'è qualcuno che le compra. E il secondo, che devo essere veloce e deve costare poco. Infatti in Bangladesh, che è diciamo, la roccaforte, la capitale della produzione della moda, la gente è schiavizzata sostanzialmente a lavorare per paghe imbarazzanti, in condizioni di vita imbarazzanti, per far sì che poi noi in Europa possiamo comprarci l'ultimo modello di maglia di H&M. E di recente ho fatto vedere un film alla mia classe che si chiama The True Cost, quindi Il Vero Costo, che parla della strage che c'è stata in Bangladesh in cui una fabbrica è crollata, e c'erano dentro non so quante migliaia di lavoratori tessili che sono morti. Tema numero due. Tema numero tre è il concetto di greenwashing. Greenwashing? Greenwashing sta sostanzialmente per è l'idea di vendere qualcosa di non sostenibile come sostenibile. Esempio. Noi di Extinction Rebellion ce l'abbiamo a morte con la Eni, perché la Eni è l'azienda che produce di più diciamo così, o che genera più emissioni di CO2 in Italia. Se però guardiamo la pubblicità della Eni su Rai 1, Eni più Giulia è meglio di Eni, foglie verdi dappertutto sembrano che siano sostenibili, no? Biologico. Biologico, bio salta fuori, no? Biodiesel, uno dice, ah, beh, bio, bravi. Eni con gli azzurri, Eni dappertutto, però intanto Eni è la peggiore in Italia come emissioni di CO2. Diciamo che spesso c'è la tendenza a saltare un po' sul carro dei vincitori e portare avanti un concetto come la sostenibilità in modo però non coerente. Eni è stata multata dall'antitrust con una multa allucinante per pubblicità ingannevole. Quindi il greenwashing è pubblicità ingannevole in ambito sostenibile. Quindi chiunque spacci qualcosa per sostenibile quando chiaramente non lo è. Quindi ricapitolando, fast fashion, il mondo della moda, greenwashing, quindi pubblicità ingannevole, ed infine esponenzialità, quindi il fatto che il cambiamento climatico non è lineare, non è prevedibile, ma da un giorno all'altro scoppia, e quando scoppia continua ad aumentare. Bene, io ho concluso. Sì, lascio la